l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, per questa novità che da questo sabato primo di novembre, non a caso tutti i santi, e infatti noi tenteremo di farle girare parecchio, parecchi santi in questo paese, però una novità, tutti i sabati per molti mesi, non solo il sottoscritto, che insomma più o meno conoscete se ascoltate Radio 24, ma soprattutto insieme al mio compare Carlo Alberto Carnevale Maffè, compare! Eccoci qua, l'Italia ha troppi santi in paradiso, è per quello che dobbiamo fare i conti della belva. Buongiorno a tutti, signori. Allora, questa belva, voi avete sentito il ruggito, però attenzione, io vi invito, vi abituerete anche a sentire questa nostra sigla che abbiamo riscritto noi, perché la sigla dice che, come avete capito, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, perché l'imposta è più forte e l'Italia pagò. Quindi noi ci permetteremo di essere molto autoironici in questa trasmissione, però parlando seriamente di numeri, non esatto, è così facile. Esatto, perché comparto. Sull'economia italiana purtroppo c'è poco da ridere, e noi quindi proveremo a sorridere rigorosamente, con serena inquietudine e con ironica circospezione. Allora, brevissime istruzioni per l'uso, perché poi vi dico di che cosa parliamo oggi, in maniera tale poi da invitarvi direttamente a telefonare, intervenire. Il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24, se volete mandare gli sms 349 238 6666. L'indirizzo della trasmissione, così diciamo tutto, è i conti della belva @radio24.it. trovate un sito della trasmissione, attenzione, nel quale il giorno prima della trasmissione noi vi diciamo di che cosa parliamo, per decidere che cosa ascoltare sia in diretta che in podcast e su cosa intervenire, quando telefonare. Quindi se andate sul sito di Radio 24, andate nella barra programmi, trovate i conti della belva, già trovate indicato per esempio di che cosa parliamo oggi. C'è un account Twitter, compare. Sì, è un account Twitter che si chiama @contidellabelva, e vi invitiamo a scrivere, perché vogliamo fare una radio da leggere, pubblicando sui social media tabelle, grafici, link ad approfondimenti che vi consentono di partecipare e capire meglio, perché dobbiamo capire meglio i conti, e se impariamo a farlo insieme, questa poi diventa anche una radio da scrivere, quindi... Una radio da scrivere, in che senso? E nel senso che la scriviamo tutti insieme, no? Una radio a cui partecipiamo. Noi proponiamo i nostri temi, ma ascoltiamo anche i temi che ci propongono i nostri ascoltatori. Oh, come avrete capito, noi siamo di ritmi un po' concitati. Ci saranno interventi di personaggi che non vi aspettate. Forse riusciamo, forse, perché non ne abbiamo la certezza, vista l'elevatissima statura istituzionale del personaggio. Però forse riusciremo ad avere oggi un Mario Draghi, tanto per dirne uno. Ma ci saranno dei personaggi che ogni tanto interverranno, personaggi veri, attenzione, niente di finto, anche se abbiamo chiesto, ma qualcuno questi interventi finto lo prendiamo, qualcuno vero, qualcuno finto toccherà però agli ascoltatori. Per telefonare vi chiediamo di essere un po' anche voi su questa stessa linea. Su questo sì. Ecco, prima di chiamare sceglietevi un personaggio, inventatevi un nome, un ruolo, meglio se fittizio, tipo: buongiorno, sono Gigino O'Claxon, operatore di logistica integrata su gomma, in altre parole camionista. Ecco, non chiamate secondo la tradizionale liturgia telefonica, radiofonica, sono Massimiliano, chiamo da Santa Maria Capoavetta. Ecco, siete brevi, sintetici, brevi essenziali. Punto, ecco, brevi, al massimo, brevi al punto. Sono Ugo da Rò, ecco, una cosa secca per risparmiare tempo. Allora, lo spirito di questa trasmissione, anche perché è sabato mattina, voi siete tutti un po' assonnati, bisogna svegliare altri e farli venire qua, è praticamente questo. La carica. Come avrete capito, questa è il refrain finale, Osarmo Citoyen. Cittadini, dipende solo da voi avere le giuste ragioni per protestare, e a questo serviamo anche noi, per ragionare insieme a voi. Però poi intervenire, tutelarvi. Certo, formare i battaglioni non vuol dire criticare soltanto la belva, vuol dire domarla, perché la belva è al servizio di questa nazione e non è nemica di questa nazione. Quindi impariamo a conoscerla, facciamo i conti, perché dobbiamo governarla noi. Tenete conto che altrimenti la belva, guardate, vi sbrana. Non so se avrete capito, già dalla nostra sigla parleremo spesso di tasse, ma non solo, parleremo della finanza familiare, parleremo dei vostri conti, il risparmio, cominceremo proprio da quello oggi, e lo faremo nel tentativo di darvi una scossa, perché noi non diremo cose che sentite o leggete molto facilmente. Anzi, di che cosa parliamo oggi, in sintesi, così vi fate un'idea. Cominciamo da un blocco che comincerà tra pochissimo, sarà il primo blocco della nostra trasmissione, noi andremo per blocchetti e molti argomenti tematici. Guardate che, non so se l'avete capito, ve lo spiegheremo tra poco, ma se vi succede qualcosa in banca e sul risparmio, non decide più chi decideva prima. Ah. E quindi ci porremo il problema di spiegarvi e di capire voi che se l'avete capito o meno. Prima questione. Seconda questione, vi proporremo un sonoro che trovate già sul sito della trasmissione, è richiamato anche su Twitter, del Presidente del Consiglio. Ci porremo una questione, se tra il dire e il fare, cominciamo col Presidente del Consiglio, quando c'è un annuncio come quello che sentirete, e poi ci sono i fatti che noi leggiamo nei numeri, se davvero tra il dire e il fare c'è qualche coerenza. E questa è una seconda questione. Parleremo dell'economia vista dai bambini, visto che i grandi ci capiscono così poco, a quanto pare, dividono e si dividono molto. Abbiamo chiesto a loro, di senza alcuna preparazione, di dirci cosa pensano di alcune cose chiare, no? E perché anche di là si capisce se siamo capaci o meno di autotutelarci. Sì, l'economia spiegata ai bambini, anzi spiegata dai bambini, come se fossimo bimbe di 6 anni, questo è un po' il principio. Non solo, ma diremo anche cosa non si può fare. Oscar, esempi concreti delle immani schifezze che ogni giorno siamo costretti a subire dalla belva. Cercheremo di capire quello che non si può fare. Allora, fine della presentazione con la carica. Suonate la carica! Intanto fatemi dire una cosa, che paghiamo un sacco di soldi allo Stato per darci l'informazione sul traffico e Google Maps ce la regala sul telefonino tutti i giorni. No, per farti capire, Oscar, esatto, come cambiano le cose, no? Quello che 50 anni di spesa pubblica non sono riusciti a fare, cioè darci informazioni in tempo reale, circostanziata, puntuale, contestualizzata sul traffico, riesce a fare l'informazione imprenditoriale gratuitamente sui nostri telefoni, giusto per capire un po' com'è il tono. Ogni angolo c'è là qualcosa su cui riflettere. Allora, ragazzi, poi ciascuno di voi, non tutti però, molti non ce l'hanno un conto in banca, non ci dimentichiamo che per molti italiani è ancora così. Detto questo, punto su cui riflettere dal vostro punto di vista, non ne facciamo un discorso istituzionale e così via su come si calcolano i coefficienti di patrimonio bancario, stress. Però la cosa di fondo è che dalla fine di questo fine settimana che inizia oggi, cioè dal 4 di novembre, non decide più Roma, la Banca d'Italia, su cosa si fa prima nelle banche, se bisogna salvare, come le si salva. Insomma, per la Banca d'Italia, che ha già perso da anni il tasso di interesse, la politica monetaria, anche sulla questione della vigilanza delle banche, comincia il silenzio, comincia il silenzio. Caro Alberto, e quindi? È martedì mattina, sul colle fatale di Roma, dove siede la sede della Banca d'Italia, suonerà il silenzio, perché da quel momento tace. Chi ha parlato per questi 50 anni gloriosi, ma conclusi, di Pax Bancaria e le chiavi delle casseforti che contengono i patrimoni delle famiglie italiane passano nelle mani dei burocrati di Francoforte. Loro decideranno se chiuderle o aprirle, e se le aprono hanno il potere di prelevare i risparmi degli italiani per risolvere un po' delle crisi che si sono verificate in questi anni, in questi mesi, in questi giorni, e che sono state comunicate con i risultati degli stress test proprio domenica scorsa. Allora, noi abbiamo un ospite in questo inizio di trasmissione per interrogarci su intanto come si stanno comportando gli italiani nel risparmio. Sapete che uno dei punti, ci torneremo anche più avanti, della riflessione pubblica italiana è diventata che il risparmio va un po' scoraggiato, perché per aumentare i consumi bisogna dire agli italiani che la loro tendenza storica, che è già molto scesa, a risparmiare, insomma è una specie di lusso di troppo. Quindi aumentiamo le tasse sul risparmio, su quello previdenziale, lo vedremo. Tassiamo di più anche gli intermediari, le fondazioni, eccetera, eccetera. Detto tutto questo, abbiamo con noi Ennio Doris, il fondatore e patrono di Mediolanum. Buongiorno, Doris. Buongiorno a lei e a tutti. Allora, un saluto da me, Carlo Alberto Maffè. Io intanto le chiedo, che impressione ha dai dati di questi mesi? Gli italiani sono spaventati, sono conservatori, pensano a consumare di più, provano a risparmiare di più, ma intanto si interrogano sulle tasse nuove che arrivano. Lei che sensazione ha dai numeri di Mediolanum? Sono sicuramente preoccupati e tendono a consumare un po' di meno proprio per questa preoccupazione e paura del futuro e quindi a risparmiare un po' di più. Naturalmente non mi sto riferendo a chi ha perso il lavoro eccetera, che non è in grado di arrivare a fine mese, ma quelli che hanno conservato un reddito hanno tirato un po' i remi in barca e cercano di spendere meno e di risparmiare qualcosa di più, e noi lo vediamo nei dati che ci affluiscono dalla clientela. Sì, Presidente, io devo chiedere una cosa però. Come si cambia a fare il banchiere oggi dopo questo radicale spostamento di assetto istituzionale? Lei come reinterpreta il suo mestiere di banchiere? Lei è un imprenditore banchiere, quindi diversamente da molti burocrati che amministrano le banche, ha il polso diretto della situazione. Lei come cambierà il suo modo di fare banca in questi prossimi mesi e anni? Guardi, c'è una, diciamo, un cambiamento forte nei prossimi anni brevi, abbastanza importante, ma poi ne arriverà uno che sarà quasi devastante secondo me. Il primo cambiamento che sta arrivando, dovuto alla forte crisi economica che c'è stato, noi sappiamo che l'economia italiana dipende per l'85% dai finanziamenti bancari, questa crisi economica si è rimbalzata sui conti delle banche e negli ultimi 3 anni passati, probabilmente anche quest'anno, tutto il sistema bancario ha perso soldi, c'è stata una esplosione delle sofferenze più che quadruplicate. Tutto il sistema bancario, proprio tutto, Presidente? Tutto messo insieme, cioè noi mettiamo insieme. Invece è giusto cominciare a fare qualche distinzione. Io non credo che esista più il sistema bancario italiano, anzi più che non crederlo, Presidente, glielo ricordo, da oggi siamo nel sistema bancario europeo, quindi ognuno per sé, le banche devono camminare da sole. Vero, Presidente, che è così? Sono assolutamente d'accordo. All'interno del sistema si vedono, per esempio, quest'anno i 2 grandi gruppi che nel primo semestre insieme hanno fatto quasi... miliardi di utili tutti e 2 insieme su 2.100.000 di tutto il sistema, il che vuol dire che tolti questi 2 e qualche altra eccezione, noi ci mettiamo in mezzo, poi c'è veramente una situazione molto difficile, dovuta, come dicevo, sia alla crisi economica, quindi forti perdite, sia ai tassi molto bassi che riducono i margini nell'attività tradizionale della banca a comprare e vendere il denaro. Questo cosa comporterà? Comporterà inevitabilmente a fusioni, acquisizioni, eccetera. Ma lei se ne compra una di queste banche in vendita? Guardi, vengono via con poco ultimamente, Presidente, perché non se ne compra un paio? Firma un bello assegno, no? Perché io ho in mente la trasformazione successiva a questa. Perché voglio raccontarvi, se noi osserviamo in Italia la presenza del sistema bancario in Italia, noi vediamo che per il 90% è fatto da banche italiane. Su 31.000 sportelli, gli sportelli che fanno capo a banche estere sono circa 2.000, che fanno capo a Deutsche Bank, a BNP Paribas e a Crédit Agricole. Il resto tutte banche italiane. In Germania tutte tedesche, in Francia tutte francesi e così via. Questo non va bene, dobbiamo cambiare, dobbiamo avere un sistema bancario europeo, se no a cosa serve questa unione bancaria, esatto. Presidente? Ma questo vede, non solo parleremo europeo, ma parleremo mondiale, questo è quello che succederà. Intanto chiariamoci perché c'è questa situazione di muraglie cinesi che hanno separato i sistemi bancari. Perché se una banca straniera vuole entrare in un paese ha 2 possibilità, aveva fino a ieri, o apriva filiali e ce ne sono già troppe, quindi un bagno di sangue, oppure ne acquisiva una. Per acquisirla aveva bisogno dell'autorizzazione della banca centrale, che gli veniva negata, per cui ogni nazione ha tenuto le sue banche. Ma con la tecnologia, l'avvento della tecnologia, che sta rendendo sempre meno utili o sempre più costosi e poco utili gli sportelli, e noi vediamo le chiusure che ci sono, questo sta cambiando. E che cosa succederà? Succederà che quando le generazioni digitali avranno un maggior peso di quello attuale e tutti saranno un po' più tecnologici, perché la tecnologia diventa più semplice, allo stesso tempo chi non la usa si riduce naturalmente di numero, allora qualsiasi banca potrà aprire in qualsiasi paese un suo ufficio di rappresentanza, una filiale, e nessuno può negarglielo, e dopodiché offrire i servizi su tutto il territorio. Ecco, quindi senta, ho capito perché non compra la banca, Presidente, perché in realtà vuole comprarsi un po' di telefonini e, come dire, occupare mezza Europa con la tecnologia, è questo che mi sta dicendo? Esatto, ma io voglio farvi una previsione non mia, ma che mi trovo abbastanza d'accordo, ma quella della amministratore delegato del Banco Bilbao Vizcaya, che ha dato un'intervista al Financial Times il dicembre scorso, e lui dice che contro le attuali 20.000 banche analogiche esistenti nel mondo ne sopravviveranno nel mondo alcune dozzine digitali. Alcune dozzine rispetto a 20.000. Alcune dozzine. Hai voglia MPS? Allora, Presidente, allora, magari, visto che ne devo sopprimere alcune dozzine, ma non è che lei magari smette di salvarne quelle che sono già mezze morte? Vi chiedono ancora dei soldi per salvare le banche mezze morte in Italia? Dica la verità, Presidente. Allora, primo, diciamo che all'estero si sono salvate le banche molto più che in Italia, perché io voglio fare un solo esempio. Presidente, siccome questo i lettori e gli ascoltatori l'hanno sentito da una settimana, parliamo di quella italiana, perché che gli altri paesi abbiano avuto vagonate di miliardi, verissimo, però parliamo però di quelle. Però appunto le 9 bocciate, sono 15 sono nostre, Presidente. Che facciamo? Le salviamo con i soldi delle banche sane e facciamo ancora alla vecchia maniera? Posso qualche dubbio sulle bocciate, perché gli stress test che si fanno naturalmente dipende da come si fanno. Si penalizza moltissimo il titolo di Stato e poco il derivato, allora vengono bocciate alcune e non altre, viceversa. Ma al di là di questa polemica, è chiaro che dal 1° gennaio 2016, quindi manca un anno, più nessuna banca potrà essere salvata. È per questo che tutte fanno gli aumenti di capitale e così via. Il mio ragionamento. Però posso fare una domanda secca: è meglio o peggio non potere più contare sulla trattativa preventiva all'orecchio del governatore, su chi far entrare in una banca, come salvarla, gli amici degli amici, quella pax bancaria, no? E invece com'è la regola da oggi, perché questo vale per MPS, di cui parleremo più avanti, ma bisogna che gli azionisti e i manager siano capaci, rischino delle soluzioni di mercato, se non vanno bene dopo l'Europa e prima i mercati li mandano a casa. Io dico che è meglio, lei che dice? Sarà meglio secondo me, ma occorreva che il mercato, i risparmiatori fossero preparati, sì. Questo è il concetto, perché non si poteva far arrivare improvvisamente un fulmine a ciel sereno dove prima le banche erano sicure come lo Stato, poi improvvisamente non lo sono più. Allora questi mesi servono perché il mercato si è preparato, e nel frattempo preparate le banche con i giusti aumenti di capitale che devono fare, i tagli dei costi e così via, per affrontare una situazione nuova che alla fine io vedo molto positivamente, perché è giusto che la selezione naturale che c'è in tutti i settori ci sia anche nel settore bancario. Quindi dobbiamo sfruttare questi mesi per fare un po' di educazione, preparare i consumatori a scegliersi le banche sane. Però a questo punto anche le banche devono fare una scelta. Faccio una domanda al Presidente Doris. Siccome qui la tassazione sul risparmio prudenziale aumenta verticalmente con la legge di stabilità, voi per esempio al cliente, uscendo dalla vecchia logica del sistema che doveva dire meglio tanti titoli di Stato, diamo una mano al nostro paese, meglio i fondi italiani e così via, gli spiegate che negli altri paesi europei basta prendere un fondo incardinato lì previdenziale e si paga, si risparmiano un mucchio di tasse, oppure no? Certo che lo diciamo, però noi sottostiamo alle leggi italiane, quindi dobbiamo dire agli italiani quali sono le leggi, quali sono le imposte che devono pagare. Certo. Ecco, ricordiamoci un'altra cosa, a proposito di Europa, di vigilanza unica, di mercato unico e così via. Se c'è un mercato unico, ma per esempio continua a permanere lo spread fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, questo spread si trasferisce alle banche. Certo. Quindi, ecco, benissimo. Trasferendosi alle banche, si trasferisce all'economia di quei paesi. E quindi inevitabilmente l'economia italiana lavora in una condizione di inferiorità anche per quanto riguarda il costo del denaro e del finanziamento. Questo è un problema che non dipende dalla banca. Ah no, certo. Questo dipende dalle simmetrie dell'euro, che bisognerà vedere se e come nel tempo riusciremo in qualche maniera. Sono molto scettico su questo. Questo è un grosso problema. Faccio un altro esempio. Prendiamo questo nuovo scenario di cui Banco Bilbao Vizcaya ci parla. Se continueranno queste differenze, chi vincerà nella competizione del mercato? La grande azienda multinazionale, da chi si fa finanziare? Da banche che hanno un costo di raccolta più alto e che quindi fanno pagare più denaro, o da banche che hanno un costo di raccolta più basso e quindi lo fanno pagare meno? È scontato, per così dire. Mi pare di capire che il presidente Doris vi dice, cari risparmiatori italiani, di stare molto attenti, perché ci sono parecchie banche italiane che inevitabilmente, è vero compare, sono destinate... Inevitabilmente, ed è una cosa che è connaturata a questo passaggio istituzionale fondamentale. Il 4 di novembre... Siamo sbancati. Pubblicità, grazie Ennio Doris. Grazie, quello. Presidente. Riprendiamo il filo del discorso. Telefonate 800 24 00 24. Io lo so che non è vostra abitudine chiamare il sabato, meno gli altri giorni, però qui noi siamo pronti per le vostre telefonate. Riprendiamo il filo del discorso da dove si era interrotto con Doris e partiamo dal caso MPS, che è quello più evidentemente tale da preoccupare chi ha i soldi, nell'antichissima banca di Siena, travolta nel tempo per via di una fondazione di un partito politico che non mollava la presa, arrivata in ritardo a mettere in regola i suoi coefficienti patrimoniali e poi comunque bocciata. E allora il problema è capire che adesso dare la soluzione al problema non è più come prima nella storia italiana, è cambiato tutto, perché si decide in Europa, si viene giudicati ex post. Insomma, il tentativo di questi giorni di MPS, che non riesce bene a capire con chi deve parlare, perché prima ci si faceva dare l'autorizzazione prima e tutto il sistema ti tutelava, per fortuna non è più così, è un po' come le disperate truppe italiane nella prima guerra mondiale che uscivano dalle trincee allo sbaraglio. Salaia! Salaia! Ecco, insomma, adesso non vorrei dire perché... Però è un po' questa l'impressione. Quando leggete in questi giorni una quota di aumento di capitale aggiuntiva, le cessioni di alcuni asset, un consorzio per garantire come si fa a rateizzare la restituzione dei monti bond in maniera tale che l'Europa però non dica che è un aiuto di Stato, vedete insieme raffazzonate delle ipotesi che testimoniano, per quanto Doris difenda come tutti i banchieri il sistema bancario italiano, il fatto che quello che si sapeva che sarebbe avvenuto si è fatto finta che poi di scoprirlo a questo momento, tranne dare la colpa ai cattivi che sarebbero sempre gli altri. Allora, proprio per questo, tentiamo di spiegarvi in una rubrica una parola con cui bisogna che tutti quanti iniziamo ad avere a che fare. La rubrica, cioè, non è mai troppo presto. Una parola, un numero a settimana con il maestro Alberto Parcobuoi. Conti della Belva, riprendiamo questa antica tradizione che era del servizio pubblico radiotelevisivo della RAI tanti anni fa, poi persa, no? Nei meandri della fiction, dei talk show, dei palinsesti di questo baraccone pubblico che è più per 4/5 intrattenimento commerciale e per il resto informazione dei partiti e della politica, ce ne occuperemo un'altra volta, però nella rubrica non è mai troppo presto per capire una parola settimana e il contributo che noi tentiamo di darvi per chiarire una parola. E questa settimana, proprio perché parliamo di MPS dopo, la parola è Bail-in, e abbiamo in collegamento il maestro Parcobuoi. Buongiorno maestro. Buongiorno cari amici, eccoci insieme per imparare a leggere e a scrivere di economia. Forse non avete mai sentito parlare dell'espressione bail-in, e quindi è il caso di capire di che cosa si tratta, visto che da martedì 4 novembre potremo essere costretti a familiarizzare con questo termine. Deriva dal verbo inglese to bail, che potremmo tradurre svuotare l'acqua di una nave che affonda. E la nave che affonda sono le banche. Per decenni le banche in difficoltà sono state salvate tramite il bail-out, ovvero svuotando l'acqua delle sofferenze e delle perdite relative a carico dello Stato. Con l'unione bancaria arriva il bail-in, salvataggio dall'interno. Si tratta di una norma che in caso di fallimento dispone che la ristrutturazione sia a carico degli azionisti, degli impegni, obbligazioni e siete i correntisti. Alta allarme rosso, perché questo richiama il precedente Cipro, le regole che l'Europa a quel punto ha cambiato. Quindi chi è in ascolto deve sapere che se si va al bail-in ci si rimette direttamente, in quanto clienti, in quanto azionisti, in quanto obbligazionisti, in quanto soprattutto anche depositanti oltre una certa soglia. Magari in caso di difficoltà di una banca non sarà più lo Stato pantalone, ma sarà il cliente mutandone, nel senso che dopo il bail-in il cliente rimane in abbigliamento intimo. Beh, cioè rimane in mutanda, insomma, sta dicendo. Cari amici, da quando oggi entrate in banca e sentite dire bail-in, guardate che non è un'espressione in vernacolo ligure, indicante stupore o meraviglia per un fatto inatteso e imprevedibile, no. E forme di convergenza linguistica fra inglese e dialetto ligure sono state recentemente rinvenute nei verbali del consiglio di un'antica banca genovese, tenutesi proprio la pubblicazione degli stress test. Risulta che a uno dei consiglieri d'amministrazione che chiedeva che ne sarebbe stato dai risparmi dei clienti, l'ispettore della BCE abbia risposto: bail-in. Ragionate, gente. Ragionate. Allora, qui si tratterà di ragionare. Io ringrazio il maestro Parco Buoi, che ogni tanto in questa rubrica, non è mai troppo presto, ci darà delle illuminanti spiegazioni su questo termine. Bail-in in senso di salvataggio. Io non sto dicendo, noi non vogliamo terrorizzarvi dicendo che per MPS si arriverà a un salvataggio di questo tipo, cioè che oltre una certa soglia di deposito colpisce anche i depositanti e gli obbligazionisti, distinguendo poi tra gli obbligazionisti le tranche senior e no. Però questa cosa bisogna che voi la mettiate in testa, perché questo è ciò che avviene. Per conto mio, quello che sta avvenendo in questi giorni a MPS, al netto delle condanne che ci sono state ieri per ostacolo alla vigilanza di Mussari e Vigni, il presidente amministratore delegato e direttore generale, indica comunque che c'è un enorme problema. Io non sono tenero con la linea di difendere le migliori banche del mondo, quelle italiane, e dire che è vero, sì, negli stress test le banche tedesche hanno avuto rispetto a leva finanziaria e asset in derivati criteri diversi rispetto ai titoli pubblici, però vi dico la verità, io non considero un particolare aspetto positivo che le banche italiane si siano riempite la paccia di titoli del debito pubblico italiano. Non credo che per questo meritino, dal punto di vista dell'azionista, dell'obbligazionista e del cliente, un particolare monumento. So che molti di voi, lo vedo dagli sms, la pensano diversamente, però ragionate che le banche sono, non sono per fare un favore allo Stato, capito? Dovrebbero pensare a voi, perché la novità è che pagate voi se succede un guaio. Allora, compare, caro Alberto, tu invece di quello che sta succedendo al MPS, che ne pensi? Penso che la più antica banca del mondo abbia da inventarsi un nuovo futuro, e questo futuro richiede coraggio e richiede di ripensare un perimetro di azione che trascenda i colli fatali di Siena, e in un certo senso è una grande opportunità. Se oggi MPS riparte dal brand, riparte dal fatto che è nota in tutto il mondo e quindi andreottianamente, magari male, ma la conoscono tutti, può fare quello che fecero 20 anni fa i francesi quando comprarono Gucci e con un nome importante rilanciarono una tradizione che sembrava perduta. Tutto sommato, ripartire dal brand per chi dovesse investire nel PS potrebbe non essere una pessima idea, perché diceva bene secondo me il presidente Doris prima, oggi la banca è un asset intangibile, oggi la banca è un insieme di processi, non sono filiali con le colonne doriche. Aspetta, questo nella nostra mente è un asset intangibile, però se vai a vedere gli attivi patrimoniali delle banche, italiane hanno gli attivi pieni di mattoni. No, infatti è veramente, anche quelli asset sono del tutto intangibili, nel senso che proprio non c'è più modo di toccarli, ecco, essendo largamente spariti. Sì, è vero, MPS. Questo è il problema vero, Veri. Le banche italiane si dice abbiano finanziato le imprese, la verità è che hanno finanziato un mattone larghissimamente. Questa decisione che hanno preso, e invece di finanziare tecnologia, innovazione, imprenditorialità in senso buono, hanno preferito la strada protetta del mattone. Ma il mattone, si sa, dipende dal tasso di crescita di un'economia, dal tasso di espansione demografica. Questo paese non ha brillato negli ultimi 20 anni. Allora, voglio sperare che nessuno dia retta a chi dice facciamo intervenire il governo nel MPS. Sentiamo come la pensano alcuni nostri ascoltatori. Cominciamo con Stefano da Modena. Stefano, prego. Pronto? Sì, eccoci. Allora, dunque, Giannino, quando ancora tu portavi i pantaloncini, MPS era la prima banca a fare la banca nel mondo. Ecco, quindi massimo rispetto. Ma secoli prima, rispetto. Ben prima che io portassi i pantaloncini. Bene, tu sei del paleolitico, quindi... Ah, ecco, va bene. Quindi MPS o la salvate, o lo salva sto Stato che ha dato, ha regalato miliardi. Ah, tu sei proprio niente, lo Stato. Assolutamente. Lo Stato deve salvare, perché salva gli immigrati, quindi deve salvare i toscani, deve salvare gli azionisti e deve salvare tutti. Ah, deve salvare, vogliamo risalvare ancora la fondazione. Ma cosa vuol salvare? Ma no, ma scusa Giannino, sì. Scusa, questa non è, che è come dire rinunciamo a Raffaello. Tu questa dici? Questa è la prima banca nel mondo. Ma vabbè. Nel mondo. Ecco, io rispetto il tuo punto di vista, ti faccio rispondere al mio compagno, io ti ho già risposto, la mia risposta è... No! È chiaro? No! Ecco, no, la politica non ci mette i soldi, per favore. Cosa diversa era se invece di dargli il prestito impiccando una redditività della banca che non c'era all'inizio, lì si faceva un intervento all'inglese, si interveniva, si puliva, si rivendeva, invece abbiamo deciso di fare i finti fighi, per così dire. Noi l'abbiamo voluta salvare, in quel modo lì che io preferirei, perché è un modo limpido, eh? Quando una banca non sta in piedi, lo Stato può intervenire come altrove dicendo io ripulisco tutto, bastono l'azionista, lo riduco a nulla, dopodiché la ripulisco, la rivendo. Abbiamo voluto impiccarla a un prestito di Stato per fare i fighi e dire ma noi non abbiamo bisogno di aiutare le banche, adesso metterci di fronte alla vigilanza che cambia l'intervento dello Stato, per me no. Ma sentiamo che dice il compare. No, non si può e non si deve più fare. Le banche andavano ricapitalizzate quando era necessario, ma non reindebitate, ricapitalizzate. Poi, se i capitali non saltavano fuori dai privati, ci poteva anche stare qualche anno fa, lo hanno fatto quasi tutti i paesi europei. Invece abbiamo dovuto fare i primi della classe. Quindi sono d'accordo con te, Oscar, su questo, non su tutto, ma su questo sì. MPS oggi deve chiedere i soldi al mercato, e ha fatto bene il MEF a ricordarlo. E peraltro, anche se non ricordo il MEF, ricordo che martedì mattina 4 novembre le decisioni e le approvazioni ex post sull'assetto di MPS e di tutte le altre banche italiane ed europee che sono in condizione di essere ristrutturate, quello che è, non viene più da Banca Italia, non viene più dalla controllo nazionale, ma viene da Francoforte. E questa è una notizia per spezzare quel legame distorto che c'è fra territorio, nazione e banca. Dobbiamo spezzarlo, altrimenti noi l'unione bancaria non la faremo mai più. Sono d'accordo. Rispondo subito, arrivano le prime raffiche di ascoltatori. Giannino, guarda che rischi, perché rischi che qualcuno quereli e denunce perché hai fatto la partita dell'inno nazionale. Sì, ho fatto la partita dell'inno nazionale. È deliberato. Questo è un paese che nella Costituzione è fondato sul lavoro e invece in realtà è diventato fondato sulle tasse. È una parodia dichiarata, deliberata. Spero che nessuna istituzione dello Stato decida di trascinarci in tribunale, però è una maniera per fare riflettere tutti sul fatto che si continua a dire che non è vero che ne paghiamo troppe e poi gli effetti sono nell'economia reale. Quindi questo sapevamo di assumerci un rischio, però da questo dipende. Adana Ferrara, te la senti di intervenire rapidissimamente? Qual è la tua opinione sulle banche? La mia opinione sulle banche? Sì. Ah beh, veramente il numero delle banche è aumentato in maniera esponenziale e di conseguenza i problemi sono nati. Perché chiaramente se c'è concorrenza, se ci sono tante attività, tanto personale da pagare, è chiaro che poi la fetta è quella e c'è chi ne risente. E quello che io volevo capire è, sì, visto che da martedì dipenderemo da Francoforte, sì, le decisioni verranno prese, sì, da Francoforte, sì, non vedo per quale motivo noi italiani non possiamo portare il nostro denaro all'estero. Ah, aspetta, questo poi il compare ti darà una risposta immediata. Guarda, il problema è investirlo dove ci sono prospettive di crescita, non portarlo all'estero, ma collocarlo in chi lo sa far fruttare. Abbiamo bisogno di alzare la redditività del nostro capitale investito. Questo paese ha un sacco di stock di capitale investito malissimo, a bassa redditività, e invece bisogna allargare gli orizzonti e andare a cercare redditività dove c'è. Allora, molti sms di azionisti MPS storici che ci dicono siete degli infami perché abbiamo cacciato 5 miliardi dal mercato, fate propaganda, voi dovreste battervi per l'informazione, invece non fate informazione, abbiamo già perso il 95% per dare retta a quelli che vogliono le banche capitalizzate come dite voi, tutte balle, compare. No, le banche vanno capitalizzate, non lo diciamo noi, lo dicono le regole dell'EBA, lo dicono le regole della nuova unione bancaria, e capitalizzare le banche adeguatamente, non per tutelare minoranze che fanno patti di sindacato per proteggere antiche governance. Vogliamo dire che l'esame di BCE è stato un esame fondamentalmente di governance. Le 9 banche su 15, sono 9, non sono 2, bocciate agli stress test, sono fortemente correlate con episodi di governance passati. E guarda che non lo dico io, l'ho detto chiaramente il governatore della Banca d'Italia ieri, esatto, dicendo: signori, c'è stata una mala gestio. Comunque, l'ho detto anche in latino. Per il momento chiudiamo qua. Ricordatevi che c'è un problema. Il problema è che nel sistema italiano le banche a controllo, fondazioni e quelle di tipo cooperativo quotate hanno un problema di governance. La politica dovrebbe riflettere su questo invece di dirvi che sono tutte fighe le banche italiane. Oh, attenti che pagate voi, noi ve lo stiamo dicendo, che se poi ci credete che siamo i più fichi, i più bravi, incolpevoli, cioè, poi pagate, non venite a dirci che non ve l'avevamo detto. Comunque, adesso andiamo a un altro blocchetto, questo blocchetto è, anche questo tornerà, sulla distanza tra quel che si dice e quel che si fa, che in Italia spesso è una distanza che si misura in parsec, neanche in anni luce, cioè proprio in misure astronomiche, cioè è questa roba qua, la distanza tra il dire e il fare in Italia. Un enorme incidente. E cominciamo con questo primo esempio. E l'esempio che facciamo, ovviamente, questa settimana, legge di stabilità, è su come la legge di stabilità vi è stata presentata. In questo modo. Tra la finanziaria del 2014, che poi si chiama stabilità, legge di stabilità, e la finanziaria del 2015, il 18 non è l'articolo dello Statuto dei lavoratori, di cui pure parlerò tra poco, ma sono i miliardi di euro che noi tagliamo come tasse. L'Italia, con questa legge di stabilità, compie la più grande opera di riduzione delle tasse mai tentata. Allora, compare, queste sono le testuali parole che i giornali hanno ripetuto per settimane e tendono quasi ancora a ripetere. Il più grande taglio di tasse della storia d'Italia. Mi spiace, ma dobbiamo fare un po' i conti di questa belva fiscale che ci sta rappresentando un intervento sui conti dello Stato che non corrisponde alla realtà. Mi spiace, e come dice giustamente la Commissione Europea nella sua lettera, la violazione dei conti non è seria. In effetti i nuovi numeri della legge di stabilità sono un po' tutti da ridere, caro compare. Non so se non da ridere o da piangere, a dirti la verità. Io, ci sono alcune cose, le abbiamo dette, ma ricapitoliamole, sulle quali non solo non sono d'accordo dal punto di vista concettuale, epistemologico. Io voglio che i politici, qualunque sia il loro colore, dicano le cifre dei loro provvedimenti per quello che sono i loro provvedimenti. Uno, due, ci abituino a parlare provvedimenti alla mano, numeri alla mano, e non per chiacchiere nei consigli dei ministri. C'è un problema per me grave del capo dello Stato che autorizza il varo di decreti legge, richieste di fiducia, vari delle leggi di stabilità senza testi. Per me è un problema istituzionale gravissimo. Terzo, ci sono cose concettuali secondo me completamente sbagliate, lo dico modestamente, da mero cultore della materia. L'idea che per aiutare i consumi, confermando gli 80 euro, che sono una spesa in più, non è una detrazione fiscale. Questo l'ha detto chiaramente la Ragione Generale dello Stato, derubricando quella posta di bilancio che era stata dichiarata essere riduzione fiscale, invece correttamente, tecnicamente, impeccabilmente, a maggiore spesa. È una scelta di trasferimento, quindi spesa pubblica, che il governo decide di mettere nelle tasche di una specifica categoria di cittadini. Quindi non è deduzione fiscale che, come direbbe la Costituzione, vorrebbe la Costituzione, ha un criterio di distribuzione equa su tutti i giardini. Al contrario, è una scelta politica precisa che ci sta, guarda, Oscar, sia chiaro. Basta che però si dica, ma perché? Perché si vuole mistificare? Io personalmente ritengo che sia giusto che il segnale del governo vada a sostenere certe categorie di reddito, però lo scelga liberamente e politicamente in maniera trasparente. Io ti dirò che se l'effetto non deve essere economico, ma quello redistributivo di giustizia, allora io ti dico che preferirei darla agli incapienti, ai pensionati sotto il limite, a tutti quelli che né nel 2014 né nel 2015 vedranno il becco di un euro. Se poi andiamo sul campo gli effetti economici sulla crescita, secondo me gli 80 euro confermati, che sono praticamente tutta la parte in deficit della manovra dell'anno prossimo, tutta la parte in deficit, sommati alla stangata sul risparmio previdenziale di cui abbiamo già parlato, sono una cosa sbagliata, perché io concentrerei, per me, lo dico modestamente, chiedo a te, tutte quelle risorse mette sul versante dell'offerta, più una parte di tutte queste risorse messa in tasca a chi non ha un euro, per me facevano prima crescita, più crescita con la prima cosa, con tagli all'IRAP, quest'anno e l'anno prossimo, finanziati in copertura e non in deficit, e poi con una parte di redistribuzione sociale che per me manca. Tu come la pensi? Sì, penso anch'io che il segnale andava fatto alle imprese, a quali sono state fatte promesse non mantenute, anzi promesse addirittura, come dire, celebrate da Confindustria e poi smentite pochi giorni dopo, e quindi di fatto interventi per ridurre il cuneo fiscale alle imprese, vero, per ridurre quel disincentivo al lavoro, quel disincentivo all'impresa che era la tassa che viene posta sulle imprese, non sono stati di fatto messi in atto, anzi sono stati rinviati. Quanto alla scelta tecnica, fammi dire una cosa molto importante: dare 80 euro in contanti secondo me è una grandissima stupidaggine tecnica, era un'occasione perfetta per dare quello che si voleva in moneta elettronica. Te lo dico perché tecnicamente noi possiamo riappropriarci di un minimo di sovranità monetaria micro, che è quella per esempio di usare la tecnologia per dare 80 euro digitali, così eravamo sicuri sostanzialmente che venissero spesi, perché possiamo cogliere l'opportunità di un intervento, ripeto, completamente scoperto, perché questi 10 miliardi sono l'equivalente, hai detto bene tu, del deficit. Ecco, per consigliare agli italiani, incapienti o meno, poi si può discutere sulle classi, di passare progressivamente alla moneta elettronica. Questo ci consente, per esempio, di garantire che parte di quei soldi effettivamente vengano spesi e non risparmiati e non finiscano invece, per esempio, nei rivoli dell'economia sommersa. Però, questo però, è anche però, il problema tecnico. Io so che adesso gli ascoltatori dicono: criticate il governo, criticate sempre. Povero Renzi ci prova, però scusate, io avrei preferito dire: avrei voluto fare 18, però vi devo sottrarre 3,4 miliardi che dipendono, loro le chiamano rendite, per me chiamare rendite risparmio previdenziale è un insulto, perché spaccia per una cosa politica di sinistra una cosa il cui significato invece è antisociale e anticrescita. Queste vanno sottratte. Comunque andava sottratto anche il miliardo dal gioco legale, io non è che pianga per quello, ma intanto va sottratto perché è un aumento di entrate. Quello che prende in più da tutti i soggetti del terzo settore, un'estensione della base imponibile dal 5% al 77% dei dividendi. Voi direte: sì, ma colpisce anche le fondazioni bancarie che tu non sopporti. No, colpisce tutti quelli del terzo settore, è una cosa intollerabile. Ma come, il terzo settore che deve dare una mano al welfare, lo Stato improvvisamente gli passa l'imposizione? No, sta spiazzando solo gli investimenti privati, anche gli investimenti, fammi dire, sociali. Il governo sta spiazzando il risparmio allocato a forme di welfare alternativa, sta tagliando le gambe alle forme alternative di Stato sociale. Intanto i 18 miliardi non ci sono, e quindi noi vi faremo esempi di questo tipo tutte le volte. Io sono un cittadino che pago le tasse, lo Stato mi deve proteggere, voglio i carabinieri, la fanteria, i bersaglieri. Andiamo, non esageriamo, signor Bonocore! E non alziamo la voce! Questo spesso useremo Totò, che non passa mai di moda, come vedete, ma spesso sentirete anche a questi microfoni, con la nostra squadra compare, una voce fisso che noi avremo su questi temi qua. Cioè, non senza un certo fastidio, esatto, lo sentirete. Perché... attenzione, gli ascoltatori di Radio 24 lo conosco, quella mia trasmissione, sanno che torna. Andate sul suo blog fastidio.net col PH iniziale. Come Cesi Fantoni, te la ricordi, quella Fantoni Cesira. Stiamo parlando di Mario Seminario. Ecco, grazie a noi, e soprattutto benvenuto perché con noi. I riccioli più cattivi dell'economia italiana. Ma allora, grazie. Su questa legge di stabilità, Mario, tu che dici di quell'annuncio che hai sentito prima del Presidente del Consiglio? Beh, una cosa che sto ripetendo alla nausea nelle ultime settimane, al punto che sto cominciando anche a stancarmi di me stesso, cosa che comunque mi accade abbastanza di frequente, cioè da che mondo è mondo, le leggi finanziarie, le leggi di bilancio hanno un importo lordo, che è il totale della movimentazione, e un netto a piedi lista, che è l'impulso espansivo o restrittivo. Se noi ci focalizziamo solamente sulla parte, diciamo, espansiva, vera o presunta tale, che è quella dei 18 miliardi, e omettiamo completamente innanzitutto di segnalare quant'è l'importo a piedi lista, quindi il vero impulso espansivo, e soprattutto quali sono le coperture, come vanno a colpire, diciamo, la vita delle persone e delle aziende, beh, è chiaro che stiamo facendo un discorso, nella migliore delle ipotesi parziale e nella peggiore delle ipotesi non particolarmente onesto sul piano intellettuale. Ecco, io questo... per chi è in ascolto, guardate che per noi quello che conta è la questione proprio epistemologica, come vogliamo dire, cioè il rigore, non è la critica politica, è che il rispetto netto dei netti e dei lordi, che sta richiamando Mario Seminari, è lo strumento per fare capire a noi tutti, poi ognuno si fa le sue idee, ma intanto questa è l'ABC, è un po' come i tuoi studenti, perché il campare fa il professore, quando sì, i tuoi studenti, le opinioni sono un conto, ma le risposte devono essere giuste. Sì, soprattutto perché c'è un patto fiscale da rispettare, oh. E il patto fiscale è un patto di trasparenza, di rigore. Questa trasmissione vuole sbugiardare questi tentativi di un po' di millanteria che invece si annidano nei conti della belva, e quindi chiediamo Mario, a Mario... Secondo te quali sono le cose più gravi, sia come impatto che come dissimulazione, di questa differenza tra il netto e il lordo dissimulato? Credo che non basterebbe tutta la trasmissione, esatto. Però volendo fare una sintesi estrema, io trovo semplicemente osceno l'abuso patologico e perverso della retroattività fiscale. Questa è una cosa che mi lascia semplicemente sconcertato e indignato come contribuente e come cittadino. Perché italiano. È una violazione di questo patto fiscale, no? È una violazione oltre che della legge. Tutti di i governi lo fanno, infatti. Ma è una violazione proprio delle fondamenta di uno Stato liberale, anche che noi si viva in uno Stato liberale che è una caricatura di Stato liberale, perché l'Italia quello è da sempre. Non esiste che quando io devo allora non si chiamano più imposte ma si chiamano corvée. Bravo. Perché abbiamo cominciato già l'estate scorsa, quelle dell'assolutismo monarchico, esatto, abbiamo cominciato già l'estate scorsa, ti ricordi Oscar, c'era quella misura introdotta dal governo Letta della rivalutazione dei beni di impresa, esatto. Le cui imposte dovevano essere scaglionate in 3 esercizi di imposta, e invece con la manovra di luglio le imposte si è deciso che andavano pagate tutte entro il 31 dicembre 2014, esatto. E questa è già la prima porcata, visto che mi pare che il mood di questa trasmissione consenta sì. Entro dati limiti questo tipo di licenze poetiche, quella è la prima porcata. Poi abbiamo avuto altre porcate, diciamo, come a parte il discorso della retroattività e la tassazione del risparmio previdenziale, che è semplicemente osceno. Cioè occorre che noi ci facciamo un discorso molto serio. Dopo averci martellato e come direbbe Montalbano, dopo averci frantumato i cabasisi per una ventina d'anni con l'importanza del secondo pilastro integrativo adesso, della pensione, esatto, adesso sì, non quello dell'autostrada dove verremo messi a breve continuando così, adesso noi ci viene a dire che comunque queste si chiamano rendite, chiamano rendite finanziarie, come dimostra anche il sottosegretario Delrio, che ogni volta, mi dispiace perché sono certo che è persona amabilissima e gradevolissima, ma ogni volta che parla di questi temi io vengo colto da impulsi di acidità gastrica. Noi stiamo violentando la lingua italiana parlando di rendite finanziarie, quando in realtà noi stiamo tassando per giunta retroattivamente il risparmio dei cittadini. A questo punto però occorre che ci facciamo un discorso adulto e diciamo: tra 20, 10, 20, 30 anni questo risparmio previdenziale o precauzionale di lungo periodo che noi stiamo massacrando di tasse nel presente non ci sarà più, e qualcuno si dovrà prendere carico delle persone che si troveranno in condizioni di disagio economico. Questo è vero che un arco temporale di 10, 20, 30 anni sfugge a qualunque governo che ha come orizzonte temporale un trimestre o due, però di questa cosa forse bisognerebbe parlare. Sì, fammi citare una espressione del ministro Padoan detta in trasmissione pochi giorni fa. Testuale parole: chi ha lucrato sulle rendite smetterà di guadagnarci. Io non lo so, ma non lo trovate una cosa. No, è una bolla spazio-temporale che sta su un universo parallelo. Però io sono molto stupito della politicità di queste battute del ministro Piercarlo Padoan. Non ho mai nascosto a me stesso che viene da una passione politica fortemente di sinistra. Mi aspettavo che facesse più il ministro rigoroso tecnico, e invece è diventata una bandiera della politicizzazione. Sì, ma non si può dire lucrare sulle rendite, vuol dire che sposi integralmente una religione marxista. Beh, sì. Diciamo le cose come stanno, sbagliata oltretutto, perché no. Anche per i marxisti a essere ortodossi non è affatto detto che si debbano considerare risparmi le rendite. No, quindi, esatto, a parte che qualche marxista davvero... mi sta pure simpatico, caro Oscar, la verità è che qui c'è un problema molto semplice: se lo Stato spiazza anche la previdenza alternativa, lo diceva adesso Mario, no? Noi ci troviamo di fronte a uno Stato sostanzialmente in bancarotta che sta segando anche il ramo su cui qualcuno cerca di sedersi sperando di avere messo da parte qualche cosa. Quindi Mario, questo è un tema importante. Dopo aver spiazzato gli investimenti privati in tanti settori, lo Stato sta spiazzando anche i risparmi privati. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte. conti della belva. Siamo con Mario Seminero di Fastidio.net, insieme al mio compare Carlo Alberto, ancora un secondo a parlare di legge di stabilità, un secondo si fa per dire, ovviamente. Sentiamo come pensano alcuni ascoltatori. Cominciamo con Gustavo da Belluno. Prego Gustavo. Sì, buongiorno. Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto adesso il dottor Seminerio, volevo parlare delle stesse cose. È assolutamente vergognoso che uno Stato vada a colpire i fondi pensione invece di premiarli. È una mossa assolutamente incomprensibile. Io spero che poi il Parlamento in qualche maniera riesca o decida di non proseguire strada. Dipende da noi farci sentire. Luigi da Parma, che dice Luigi? Buongiorno, e buongiorno anche agli altri conduttori. Carlo Alberto e Mario Seminerio, sì. Io sono il segretario generale, ovvero il direttore di una fondazione di origine bancaria. So che sono soggetti che non stanno a tutti molto simpatici. Però io personalmente, per la fondazione che rappresento, mi sento onestamente immune dalle critiche che vengono rivolte. Possiamo dire qual è? Sì, è la fondazione Cariparma. Sì. Mi sento immune da queste critiche perché noi conserviamo una partecipazione di larga minoranza, nella cassa di risparmio. E insomma, diciamo che nella legge di stabilità per le fondazioni, come per tutto il terzo settore, c'è una bella sberlona. C'è una bella sberlona, soprattutto perché va a incidere su dividendi che noi abbiamo già incassato quest'anno. Già. Infatti, retroattiva, come dicevamo prima, no? Quindi non si possono più neanche fare i bilanci, fare i piani pluriennali di intervento, facciamo promesse, lo dico lato aziendale, sai, Oscar, mi capita di approvare qualche bilancio preventivo, non so più che cosa mettere alla voce tasse, è praticamente un grande punto interrogativo, ogni mese devo aggiornarlo. Io vi ricordo che nel 1627, Sir Edward Coke, che è uno dei maestri della common law inglese, 1627, rispose a Carlo I Stuart: un sovrano, un re, non può chiedere un'imposta per fatti avvenuti prima della richiesta delle sue tasse. 1600. Oi, aspettate un secondo, qui si sente cosa di cori celestiali, ragazzi. Aspettate, forse allora è la cosa di cui eravamo in attesa da Francoforte. La cosa di cui eravamo in attesa da Francoforte. Most countries, when they started this process, they entered into this process under a crisis. La maggior parte dei paesi ha iniziato un percorso di riforma partendo da una situazione di crisi. La politica monetaria resta coerentemente volta a garantire le migliori condizioni per finanziare lo sviluppo, ma in alcuni paesi dell'area euro ciò ancora non accade, care banche italiane. O la smettete di riempirvi la pancia di titoli pubblici e riprendete a dar credito a imprese e famiglie. Oppure la nuova vigilanza comune europea vi riserverà attenzione crescente. Vi faccio un bello scherzetto, vi faccio. Accidentaccio. Questa è una dichiarazione di Draghi che è un po' inaspettata, per così dire. Però che dici, compagno? Dalle nuvole Draghi, sono le nuvole di Draghi, posso dire, perché qui abbiamo delle apparizioni celestiali e giustamente ci fanno arrivare qualche messaggio. Non so se la traduzione era accuratissima, però il senso penso che fosse quello. L'inizio era accuratissimo, poi diciamo che c'è stata una libera interpretazione, per così dire. Sì, che ci richiama però a quello che diciamo prima, sul fatto che non si decide più qua. E questo è il senso, no? Draghi ci sta dicendo, care banche italiane, bisogna spezzare questo legame fra titoli di Stato e banche, bisogna tornare a far credito all'economia, ammesso che l'economia se lo meriti questo credito, e poi dire, se il governo sta di nuovo spiazzando fiscalmente ogni forma di investimento privato, anche di risparmio privato, non so questo appello di Draghi se poi cadrà su un terreno fertile. Aspettate che ci dovrebbe essere, a questo punto c'è anche un proseguo, perché quella è la traduzione ufficiale, ma ci deve essere un proseguo dell'intervento del governatore di Francoforte in diretta con la traduzione ufficiale, che come sempre sentite quella di Radio 24. In pursuing our price stability mandate, circa il perseguimento del nostro obiettivo di stabilità, la ripresa ha perso vigore. La disoccupazione resta inaccettabilmente alta e domani piove pure. L'inflazione attesa resta bassa, molto bassa, troppo bassa. Praticamente un'inflazione nana maledetta. E cresci, cavolo, di un'inflazione. Ma che male t'ho fatto io? Vorrei sapere da avercela tanto con me. Ingrata che non sei altro. Con tutte le retribuzioni alte che ho lasciato in Banca Italia per darti una mano, dico io. Beh, oddio, mi pare che sia... questo era un fuorisacco, sì, tradotto... Sì, per così... sono gli 80 euro di Draghi. Però, io chiedo a Mario e poi al mio compare. Qui ci sono due temi, cioè la deflazione... cattiva è quella buona, l'inflazione cattiva è l'inflazione buona, per così dire, e dall'altra poi torniamo sulle banche. Però io vorrei sapere innanzitutto da Mario, questa roba che la deflazione è sempre cattiva, cioè agli italiani conviene che i prezzi salgano? No, non conviene, anche perché non è più un'economia indicizzata quella italiana, e quindi sarebbe un problema. La deflazione buona è quella, ad esempio, da calo dei prezzi degli alimentari e delle materie prime energetiche, quindi sono le componenti più volatili, sono anche quelle relative ad acquisti che avvengono con maggiore frequenza, la cui domanda è meno comprimibile o più rigida. È chiaro che se calano quei prezzi il reddito disponibile aumenta, e questa è una parte, questa è la cosiddetta inflazione headline, quella complessiva. Il problema sta sull'inflazione core, cioè quando la recessione diventa depressione e si innesca un circolo vizioso in cui le aziende, ad esempio, riducono l'entità dei loro fatturati, a fronte dei quali ci sono dei costi fissi, incluso quello della manodopera, ed ecco che partono le ristrutturazioni, comprese le riduzioni di manodopera e i tagli di costo. Quello è tutto si tiene. Io non appartengo alla categoria di persone che quando vedono una variazione negativa dell'indice dei prezzi al consumo si spaventano, si mettono lo scolapasta in testa e corrono a nascondersi. Bisogna naturalmente scindere quanta parte è dovuta ad uno shock positivo dal lato dell'offerta, nel senso, come esempio, sui prezzi energetici, alimentari, eccetera, e quanta parte invece, come nel nostro caso, è relativa invece ad uno stato di depressione. Però c'è una regola infallibile, no? Quando si guardano questi conti, voi guardate la variazione del prodotto interno lordo nominale e non reale. Se cresce quello va tutto bene, un nome a caso, Svizzera. Esatto. Se non cresce quello va tutto male, un nome a caso, il paese che sta immediatamente a sud della Svizzera. Questa è una regola del pollice, però molto utile è anche molto per le chiacchiere, esatto, da bar, esatto, e politiche. Quindi spieghiamo bene la differenza tra deflazione buona e deflazione cattiva. Se la deflazione è relativa a prezzi di beni a consumo frequente e sostanzialmente rigidi, dicevamo prima, fondamentalmente benzina e cibo, non è una deflazione negativa, perché non è vero che c'è l'effetto di dilazione dell'investimento tipico invece dei beni strumentali. Perfetto, no? Anche la diminuzione dei costi delle tariffe telefoniche dovute alla concorrenza. Certo. La tecnologia da sempre è in deflazione strutturalmente. Ecco, spiegami bene. Mentre la deflazione cattiva è quella, per esempio, dei beni strumentali, per esempio, dici della deflazione dei prezzi delle case, diciamo, è deflazione o è, come dire, bolla che scoppia? Oppure è un eccesso di fiscalità che costringe le persone, visto che non c'è anche un problema di liquidità, no? Perché quando io devo pagare le imposte patrimoniali sull'abitazione, perché di quello si tratta, non è che io, sfregando, diciamo, la tappezzeria o l'imbiancatura, escono le banconote con le quali io pago le tasse. Cioè, io mi trovo a dover sostenere un esborso, cioè a cacciare della liquidità per un immobile che per definizione è illiquido. E allora ecco che molti non ce la fanno e sono probabilmente costretti a mettere sul mercato, allo stesso modo in cui la stretta del credito impedisce lo sviluppo di nuove costruzioni, allo stesso modo in cui lo sviluppo insufficiente del reddito impedisce la formazione di nuovi nuclei familiari. Negli Stati Uniti c'è un dibattito molto intelligente che dice: quando vanno fuori di casa i ragazzi e si fanno una famiglia e comprano casa, questo ci serve, tra gli altri elementi, a capire come andrà il mercato immobiliare. Vogliamo provare a fare lo stesso discorso sull'Italia e scoppiare a ridere o cercare di restare seri? Questo è il discorso di fondo. Allora, un secondo, sentiamo un ascoltatore. Piero da Roma. Pronto? Eccoci, Piero. Oh, buongiorno. Allora, io vorrei dire che sul patto di stabilità, che bisognerebbe chiamarlo patto di instabilità, perché crea tanta miseria, tanta povertà. Quello europeo, quello dice, o quello di stabilità interna tra comuni? Quello europeo. Ma quello no, quello nostro, tant'è vero che io suggerisco una rubrica, sì, che si debba chiamare Porca Miseria, condotta da lei, perché SOS contro le bugie del governo. E io vorrei sapere dagli illustri personaggi che sono alla radio, sì, cosa vuol dire rendita catastale quando poi si chiama tassa catastale? Rendita, io questo un italiano che ha preso la lira sulla rendita. Piero lo giriamo immediatamente sia a compare a Roberto che a Seminero. Abbiamo appreso questa settimana, tra l'altro, che le rendite sono più basse di quello che è lo stato in casa. Comunque, lasciamo perdere, sentiamo ancora Antonio da Latina e poi torniamo in studio per dare la risposta. Antonio, prego. Buongiorno, intanto saluto Oscar Giannino. Buongiorno. Allora, riguardo al DEF per il 2015 c'è un errore, una svista tecnica da su parte. Su cosa? Sul previsto rientro di denaro sui giochi d'azzardo, perché lo Stato prevede di aumentare il prelievo erariale unico del 5%, traendolo dal payout, cioè dalle vincite sì. Che tornano ai giocatori. Siccome questo payout lo deve erogare l'apparecchio, ed apparecchi che erogano un 5% in meno rispetto alla percentuale attuale, che è del 74% o 75%, non esistono. E non ci saranno nemmeno il primo gennaio 2015. Quindi lei dice quella norma, al di là del merito e dell'impatto, è tecnicamente ineseguibile. Ma è un po' dicendo. Tutta la legge che è un gioco d'azzardo, caro Antonio. Quindi qui il payout mi sa che dobbiamo scordarcelo. Comunque è un miliardo, la roba che viene aggiuntiva dal gioco legale di Stato ai concessionari. Un miliardo. Tenete conto che lo Stato già prende di là. In termini ristretti come base fiscale 8,3 miliardi, se lo fate in maniera estensiva quasi 12. Però posso dire una cosa, fatemi dire che l'industria italiana del gioco, compreso il gioco d'azzardo, è una delle migliori al mondo, è una delle più competitive al mondo, quindi potrei dire, insomma, smettiamola di prendercela ideologicamente con falsa moralità contro uno dei processi. È un tema che divide molto. Lo so che divide, lo faccio apposta, Oscar, fammi difendere la tecnologia e l'organizzazione italiana. Abbiamo due o tre tra le aziende migliori al mondo che esportano tecnologia del gioco, e il gioco responsabile, educato, è una prerogativa degli esseri umani che ci differenzia dalle bestie, anzi dalle belve. Torniamo con una rapida opinione finale di Mario e poi del mio compare su questo fatto. Dopo l'effetto dell'aumento di imposta immobiliare che richiamava il nostro ascoltatore, le rendite, per effetto della quale, diceva, effetto immiserimento, diceva prima Mario, quindi si consuma anche meno, il contrario di quello che vuole questo governo. Aggiungerci anche quella del risparmio previdenziale, secondo me ha lo stesso effetto. Da dove nasce questa misunderstanding, questa confusione per il quale per avere più consumi si ignorano gli effetti già sotto gli occhi di noi tutti come osservatori, dei minori consumi che vengono dall'effetto paura, immiserimento del deperimento dei propri valori patrimoniali del risparmio? Perché è già un dato di fatto, non è un'opinione per me. Perché? Da dove nasce secondo te, Mario? Non ho idea da dove nasca, però mi preoccupa molto perché ci trovo delle profonde venature autoritarie e di ingegneria sociale in questo modo di pensare. Cioè è come se il governo dicesse: adesso voi vi mettete a consumare con le buone o con le cattive, non mi importa nulla se non volete farlo, perché se non lo volete fare io vi tasso i risparmi. E questo è un vero atteggiamento liberticida, illiberale, è un atteggiamento di costruzione sociale che andrà a sbattere e a rompersi la faccia e i denti contro il muro della realtà, perché non si possono prendere le persone nel paese più anziano del mondo. Forse se si osservasse l'aspetto demografico di questo paese si riuscirebbe a capire molto di più, e costringerle a consumare. Non solo, ma noi abbiamo in atto una repressione finanziaria feroce che beneficia i titoli di Stato per i noti motivi di finanziamento del debito pubblico. Per contro, tutto quello che è investimento e strumenti privati in capo alle persone fisiche viene massacrato sul piede del 26% più la patrimoniale, la patrimonialina del 2 per 1000, no? Con buona pace di tutti i progressisti di casa nostra che vogliono la patrimoniale ogni volta che respirano. E però contemporaneamente ci sentiamo dire che oltre a consumare di più dovremmo investire di più. Allora come si può chiedere a questo parco buoi di cui si ha il massimo disprezzo esistenziale di investire massacrandoli di imposte per un quarto dei frutti di quell'investimento? siamo occupati fino a questo momento del risparmio, le banche, noi ci occuperemo strutturalmente anche di cose che riguardano l'economia privata, le famiglie, le vacanze, i vestiti, cioè no? Sì, i conti della spesa, i conti della serva, non solo. E lo faremo anche coinvolgendo direttamente aziende e dicendovelo nel tempo. Questa è una novità, perché l'informazione deve anche un po' cambiare come parla delle aziende, vero o no? Sì, dobbiamo dare alle aziende una voce autonoma, indipendente e chiara per uscire da questa mistificazione della pubblicità interstiziale. No, invece senza infingimenti, prendendole un po' in giro, perché questa è la cifra della trasmissione. Allora, intanto oggi abbiamo fatto una scelta. E voi direte, no, che cosa c'entra? C'entra che i grandi, insomma, si dividono, non capiscono molto di economia. E allora noi abbiamo deciso di fare un'altra scelta. L'economia vista dai bambini. Cioè, abbiamo intervistato per questa volta, ma altre volte faremo cose random con altre tipologie di persone comuni. Questa volta abbiamo intervistato una bambina di 8 anni senza alcuna preparazione per vedere che cosa usciva fuori su alcuni temi che hanno a che fare con l'economia, e così poi li commentiamo noi e sentiamo anche che effetto vi fa. Le prime risposte: che cosa sono i numeri? I numeri sono praticamente tipo l'uno è un numero, si può scrivere o in lettere o in cifre. Per esempio, io ho due cartelli con la tavola pitagorica e le tabelline, che sono composti da tanti numeri. C'è anche il risultato, ma non è uguale naturalmente. E puoi anche dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino a quello che vuoi, ma puoi arrivare fino all'infinito, ma non puoi finire mai con i numeri. Allora, questa bambina, Angelica, 8 anni, a me colpiscono, compare, di questa roba, e naturalmente tutti quanti hanno, in realtà, parliamo di problema di informazione finanziaria nel nostro paese, hanno dei problemi a definire che cos'è un numero, perché un numero è un concetto astratto, ce l'ha un bambino ma ce l'hanno tutti. Però mi colpisce che lei, alla fine, quando tocca l'infinito, prende un punto interessante. Lo definisce molto bene, molto bene. I bambini hanno il concetto di infinito, in compenso non hanno il concetto di numero zero, che invece dovrebbero imparare, perché è lo zero il numero che definisce meglio l'economia di questo paese, inchiodata lì, ferma come un paracarro senza muoversi. Il numero zero purtroppo è la vera cifra dell'economia di questo paese. Sentiamo il resto delle risposte che ci ha dato Angelica. Il lavoro che cos'è? Il lavoro è un tipo, io farò una veterinaria, cioè prendere lavoro in un ufficio, fare il casalingo, il casalinga, curare il gatto, fare il giornalista, poi fare la maestra, il maestro, guidare l'autobus. Tutte queste cose qui sono lavori e non sono molti. Quanti euro bisogna avere per essere ricchi? Per essere ricchi bisogna essere tipo il sindaco o il governatore, qualcuno. Qual è secondo te il lavoro che fa diventare più ricchi? Secondo me diventare una modella. Ecco, compare, qui c'è tutto. Sì, i bambini arriva, primo il sindaco, i politici con le mani lunghe, secondo la modella. Questa è l'educazione che abbiamo trasmesso ai nostri figli, signori, che la rendita vera in questo paese è la rendita dell'immagine, quindi la modella, è una rendita della politica, e la rendita invece dell'impresa, del rischio, del lavoro, niente, si disperde. Però la bambina, quando risponde il lavoro, ne elenca molti. Mi ha colpito il fatto che ci metta anche la cura parentale, cioè occuparsi della casa all'interno del lavoro, che è un grande problema italiano, perché noi abbiamo la media di ore prestate in lavori non pagati delle donne più alta nei paesi OCSE, e e poi una bassissima partecipazione al mercato del lavoro. La bambina, in quanto femmina, secondo me, è già consapevole di questo problema. Sì, ha capito perfettamente che abbiamo un grave problema di partecipazione femminile al lavoro. Noi abbiamo già una bassissima partecipazione al lavoro in generale, proprio come paese. Lavoriamo troppo pochi e siamo in pensione in troppi con cifre non correlate. Adesso l'ascoltatore medio ti direbbe: è arrivato Carlo Alberto, non c'è lavoro! Come facciamo a lavorare di più se non c'è lavoro? Ma per favore, il lavoro non è una quantità costante nell'universo che va solo ridistribuita licenziando alcuni, assumendo altri, o che ne so, mandando in pensione i vecchi con la famosa staffetta generazionale. Il lavoro non si passa di mano, il lavoro viene inventato dalle imprese. Il lavoro, con tutte le stime che fa il governo, ecco, la finanziaria crea, scegliete voi, 1.800.000 posti di lavoro. I posti di lavoro non esiste. Esiste l'opportunità di interpretare l'economia con un contributo professionale. Questo purtroppo i nostri bambini ce lo stanno ricordando. Non stiamo facendo passare questo messaggio. Scriveteci a i conti della Belva @radio24.it. In questa parte finale, un'altra rubrica che noi vi proporremo sistematicamente. Non si può non fare. Si può fare, no, non si può fare, ma dai, non si può fare, è chiaro a tutti i cittadini. Non si può trattare i cittadini in questo modo qua. Su via, basta. E allora facciamoci raccontare da un imprenditore emiliano, che si chiama Renato Cifarelli e che con la sua impresa, oltretutto stiamo parlando di tecnologia avanzata eccetera eccetera, ci racconterà non solo oggi, questa è la mia speranza conoscendolo, un po' di conti della Belva che gli presenta e di quanto siano antidiluviani, inaccettabili. Grazie innanzitutto a Renato Cifarelli di essere con noi. Buongiorno. Allora, innanzitutto ci dice della sua impresa che fa eccetera eccetera, un po' di storia, di numeri. Ma noi siamo una piccola impresa italiana, tipica, familiare, però tanti anni fa abbiamo deciso di lavorare all'estero e quindi è un'azienda che ha 50 dipendenti, fa il 95% di fatturato in circa 80 paesi. Che è la chiave per sopravvivere a quello che capita sulla domanda interna nel mercato interno. Quindi. Sì, il mercato interno possiamo, cioè la maggior parte dei colleghi che lavorano sul mercato interno notoriamente non sono in buone. Settore? Settore macchine per agricoltura e giardinaggio. Perfetto. Allora, cominciamo dalla cosa che ci aveva un po' colpito. Lei quanto ci ha messo in relazione a che atto per incassare che cifra? No, settimana scorsa ci è arrivata una raccomandata su una sentenza del 1989. Quindi 89. Stiamo parlando di Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, noto a guardarci. Finanziario a fiscale, caro Cifarelli. Sì, c'era il muro di Berlino, non c'era internet, non c'era il mercato unico. Ecco. L'Oscar quell'anno lì sono andato a guardarci, era andato a Rain Man, quindi tanto per dare qualche idea di quanto tempo è passato. Sì. La maggior parte degli ascoltatori probabilmente sono tutte cose che non si ricordano neanche. Esatto. Abbiamo ricevuto la liquidazione di un fallimento praticamente definitiva su una sentenza del 1989, quindi il fallimento era ancora precedente. Certo. E l'assegno circolare che abbiamo ricevuto era della fantasmagorica cifra di euro 4,04. 25 anni! 8.000 lire, vogliamo dirla. No, ma poi pensiamo lire. Solo, compare, all'accumulo di costi di transazione, no, pubblici, privati, eccetera, per arrivare dopo 25 anni a 4 euro. Cioè, io che sono un maniaco della lean organization, nel senso, tutte le cose che costano troppo dico di non farle oppure di deciderle in autonomia. Mi faccio il conto di, allora, ma voi immaginate solo la segretaria che parte, va in banca, il bancario che fa un assegno da 4,04 euro non trasferibile, circolare, intestato, eccetera, eccetera, torna, fa la raccomandata, la manda a noi e noi la dobbiamo registrare. Cioè, il costo cumulato, secondo me, è qualcosa che sfiora i 500 euro, una cosa di questo genere. È però. È uno Stato che produce entropia, uno Stato che produce tecnicamente esternalità negative dei propri processi. Invece di essere piattaforma di generazione di efficienza, invece di essere leva di produttività, ci sta accollando pure il fardello delle sue inefficienze. Ma compare, io l'altro esempio che faccio a te, Renato Cifarelli, e questo per me è incomprensibile. Noi dal 2013 abbiamo un regime di sperimentazione delle cartelle erariali che ti possono arrivare in alcune parti d'Italia, nella PEC, quindi in maniera digitale, dematerializzate. Tutti dire viva l'agenda digitale! Però lo Stato ti chiede di pagare al contribuente che le riceve la stessa commissione di 5,9 euro delle cartelle cartacee. E allora di che cazzo di... Ma noi siamo in uno stato in cui il digitale sta sussidiando l'analogico. Paradossalmente noi siamo in uno stato in cui se fai le cose digitali stai pagando anche per gli opportunisti che sono ancora lì col pezzo di carta, la ceralacca, il timbro a difendere il loro piccolo orticello di processo monopolistico. Allora, Doing Business 2015 della World Bank ogni anno... 2015 è uscito l'altro ieri. Io consiglio a tutti di andare a leggere. Solo La Stampa è stato l'unico media che ne ha parlato. Ci trovate 350 pagine di dati comparati in cui costi e lungaggine della giustizia sono una parte. L'Italia è scesa al 56esimo posto su 189 paesi rispetto al 51esimo dell'anno precedente. Tenete conto che il costo medio, per esempio, rispetto a una vertenza societaria civile di soluzione grazie a l'esempio che vi ha fatto adesso Renato Cifarelli, in Italia è pari al 23% della cifra di cui si tratta nella disputa, nel Regno Unito è l'11%, se pensate che sia poco per differenziare dove mettere i soldi o meno, è la differenza tra la notte e il giorno. Esatto, esatto. Renato, ma oltre a questo, tante altre ce ne racconterai, voglio sperare? Sì, ce ne sono, poi neanche a farla apposta quest'anno, questa settimana ho avuto a che fare con la pubblica amministrazione, cosa che cerco sempre di evitare. Allora aspetta, ce la racconti in una prossima puntata, perché intanto noi vi salutiamo, caro compagno, dobbiamo salutare, però con le paroline di una grande canzone, certo. Money's a Crime. Ma Money's sì, a crime. Perché talvolta la moneta è un crimine. Ecco, ve l'abbiamo fatta sentire, ma intanto appuntamento al sabato prossimo, continuate su Radio 24 da me e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Continuate con Radio 24. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, l'è